Quando Antonio ritorna, è un gusto vedergli tirar fuori a poco quel che ha riportato dal suo giro. Gioielletti, filigrane, tabernacolini d'avorio, rosari preziosi, che non sempre vende per denaro, e il piacere del cambio vince in lui quello del guadagno. Antonio lascia che la moglie maneggi quanto vuole i nuovi oggetti e certi indumenti di foggia antica che la fanno ridere. Alla fine compaiono i denari, tolti da un sacchettino sudicio, ma allora Artemisia si allontana, si finge occupata e lui rimane solo a contare le sue monetine, dal baiocco al ducato che la moglie non vuol vedere. Per lei ci sono sempre doni inattesi e puerili, fragole fresche che non si sa come nella bisaccia siano rimaste così intatte, collane di noci e nocelle, marzapani. Bisogna, per fargli piacere, mangiarle subito, sotto il suo sguardo impaziente, che spesso si rivolge ombroso all'uscio, quasi temendo che qualcuno entri. I resti li faceva sparire in un baleno, noccioli, gusci, briciole. Lui aveva sempre già mangiato, mai Artemisia spartiva con lui il piatto o il tagliere. E poi cominciava a domandare: «Non vai a letto?» Come gli fosse insopportabile che lei fosse in piedi e sedesse mentre lui riordinava le sue merci. Solo quella volta che le donò una turchese, ma non ardì infilargliela in dito, uguale alla turchese di Agostino, e fu un colpo al cuore. Non parve curarsi più di lei, avvolgeva e svolgeva pettini, specchietti lisci e polvere di cipro, svelto e accigliato. Ma Artemisia si affrettò a coricarsi anche quella sera, anzi, nascose la testa nel cuscino fingendo di addormentarsi subito e lasciando bene in vista il dito mignolo che recava l'anello. Dopo qualche minuto sentì il fruscio delle vesti allargate e distese sulle corde e poi un suono inconsueto come di voce esile e lontana che cantasse. Cantava infatti Antonio un inno di chiesa della loro infanzia comune insegnato dai padri della Trinità dei Monti ai ragazzini randagi. Soltanto quando credeva la moglie addormentata, Antonio si avviava in punta di piedi alla porta, restava un momento in ascolto, faceva girare la maniglia, entrava nella stanza comune. Dall'inganno di tenere gli occhi chiusi e fingersi assopita, Artemisia non poteva trattenersi, sebbene quei modi furtivi non le facessero mai venire in mente un sotterfugio malizioso, un'insidia che tendesse. Non dormiva, infatti, e quando l'uscio si era richiuso, spalancava gli occhi, quasi a cogliere meglio le voci e le risate che segnavano di là la comparsa di Antonio. Erano motteggi e spropositi in dialetti vari, talvolta in più lingue, né capiva come Antonio ci si esponesse, ma era sicura che una ragione ci doveva essere, una ragione meditata di quelle che il marito le andava spiegando senza parlare. A lungo rimanere sveglia con la lucerna che presto cominciava a vacillare, avventando al muro le ombre bizzarre di quelle vesti stese sulle corde, non piaceva alla giovane. Il gusto di una libera solitudine poteva convertirsi nell'amaro di una solitudine imposta e riportarla ai cimenti di quando a Santo Spirito ascoltava il chiasso delle vicine malediche e che silenziosamente smaniava di dividerlo a qualunque prezzo. Per non desiderar compagnia, quella compagnia sostituiva un mortificato riposo con un atto di arbitrio fanciullesco e si levava. A piedi nudi andava intorno, si avvicinava alla porta, origliava, cercava un pertugio da cui poter vedere senza essere vista. Lo trovò una sera di pioggia che s'era, per non sentire il freddo, incappucciata in un mantello da pellegrino trovato fra gli abiti smessi. Mai s'era divertita tanto fra la delizia del gioco puerile e quella nuova e pepata della donna che inquisisce di nascosto. Nella stanzona che la tenda tirata non divideva più, apparivano le cucce degli stiattesi, grandi e piccoli, giacigli che al paragone il suo letto era un trono. La Mariuccia, lenta e oziosa, si stava spollinando, si cambiava il busto, si pettinava a testa in giù, rizzando poi fra i capelli gonfi un viso avvampato che la luce scarsa infoschiva. Il vecchio scriveva e scriveva su certi cartigli e ogni poco si alzava per far la punta alla penna, che non trovava mai il coltello buono. I bambini ronzavano tra le gambe di tutti come mosche d'inverno, passavano di sonnellino in sonnellino, erano tambossati, piangevano. Due candelieri alti da sacrestia illuminavano il tavolo dove Fabrizio giocava ai dadi, sorvegliato e ammirato di fianco e di spalle da diversi compari. L'altro giocatore era bruno e arsiccio, si grattava la barba e sbadigliava. A un altro gioco attendevano, ma in terra, i due gemelli con bighelloni vecchi e giovani, e questo gioco esigeva tanto tumulto e fracasso quanto l'altro al tavolo, sospettosa immobilità. Un giovane idiota, a cui il cane non cessava di ringhiare, voleva giocare anche lui, riceveva calci e guanciate, strillava mentre, allacciato finalmente il busto, calzate le scarpette, infilata in seno una rosa, Mariuccia usciva e nessuno la salutava né alzava il capo. Lo alzavano tutti di lì a poco e sempre più di frequente verso una specie di stanferna che s'apriva in alto sul muro di fronte. E trasecolò Artemisia, riconoscendo insieme a un rimescolio di paioli e stoviglie odor di arrosti e di intingoli. C'era una cucina di là dal muro, nient'altro che la cucina del marchese, e il fumo dei fuochi col vapore dei calderoni scendeva a mescolarsi col fiato degli stiattesi, sicché la stanza era ormai annebbiata come un lungo fiume. «Micio?» cominciò da lontano una voce chioccia e beffarda. «Dorante, Mustafà, Risotto, Cortacoda!» Nessuno nella stanza parlava. I ragazzi avevano sospeso il gioco, i bambini si erano svegliati, si era alzato il vecchio. Solo Fabrizio seguitava coi dadi, senza distrarsi, mentre Antonio, che era rimasto seduto su una balla in disparte e come spettatore, non levava gli occhi di terra. E finalmente, alcunché di pesante e lustro, volò come un uccellaccio dalla stanferna al suolo e ci fu un'improvvisa rissa silenziosa là dove era caduto. Guaiva il cane, correvano pugni alla muta, ma il vecchio, con una sconcia autorità, aveva afferrato la preda e annunziava solennemente coscia di cinghiale arrosto. E tutti facevano luogo. Così pioveva la cena agli stiattesi, per mezzo di un guattero amico lesto di mano. Come Artemisia indovinò, e non le bastavano gli occhi per seguire la alacrità con cui ciascuno tirava fuori dalle bisacce il pane e il bicchiere di stagno. Reclamava la porzione e s'accomodava per goderla. Quel pasto, arraffato per intrigo, mezzo furto e mezzo elemosina, li eccitava come una battaglia vinta. E anche Fabrizio, raccolte e imboccate in un suo sacchetto le monete del guadagno, si alzò e, battendo gli speroni, venne come per ozio al tavolo dove l'arrosto si spartiva e, senza mettersi a sedere, acciuffò un boccone, mangiò, si asciugò le dita sui capelli di Gervasio che era ricciuto. Poi, dondolandosi sulle gambe larghe, muovendo le spalle, rincalzandosi nei panni, si avviò all'uscio di strada seguito dalla sua brigata a digiuno, fra cui il giocatore arsiccio in perdita. Uscivano, erano usciti, e per un poco si sentirono parlare e sferragliare. Quelli di dentro si dedicarono con più attenzione al pasto, mangiavano voraci e permalosi, ognuno ristretto in sé, voltato al muro, arrampicato su un piolo di scala o sul tavolo difeso da un oggetto personale, una scodella, un bicchiere, un coltellino. Gli ospiti non chiamati a partecipare del dono avevano tirato fuori le gamelle della minestra dei frati e lavoravano di cucchiaio. Ora tutti masticavano in silenzio, mentre il clamore crescente della cucina del marchese, i riflessi della fiammata, il fumo, erano come una vicenda di nuvole e di sereno. Le peripezie di un cielo sotto cui ci si trovasse a dimorare. L'idiota ricevette pane unto come il cane, i bambini si erano già riaddormentati con la gotta sull'osso e Antonio, che mangiato non aveva, si alzò. Si era appiattito al muro quando Fabrizio e gli amici erano usciti e ora andava attorno con quel suo modo sghembo e trasognato di un tempo, su cui era germinata e cresciuta come da un seme di fortuna una pacifica, conscia assennatezza. Mise a letto i bambini, chiuse le carte del padre nel cassetto, gli tolse di lato il fiasco e, sfiorando i gemelli mentre passava, parve che gli venisse posata a caso la mano sulle spalle del biondo Gervasio, che aveva la schiena un po' curva, e a malincuore se ne ritirasse. Uscì sulla strada, rientrò con la fronte increspata come a un pensiero molesto. Artemisia guardava e imparava a suo marito, e disse di voler tirare il tendone perché era tardi, rincasato Nocchi era fuori. Ma allora il più tranquillo, il più incolore degli ospiti, quasi un vecchio seduto in terra con le spalle al muro, mosse il braccio destro e il suo mantello si aprì. Si vide, piatto sulle sue ginocchia, uno strumento a corde che la mano sinistra sfiorò e una voce ronzante e profonda come un ricordo straziato di canto fu il personaggio nuovo di quella veglia. Senza dir nulla, quasi rammemorando per sé solo, lo spagnolo toccava in sordina, seguendo un ritmo monotono e uguale, che era un accompagnamento, e la canzone gli rimaneva chiusa sul labbro arcigno, sigillato. Poi, all'improvviso, la mano impazziva e con tanta velocità strappava le corde che le dita ne scomparivano. E dall'impasto del ritornello sfrenato, voci e strumenti emergevano, sino tamburi, una festa col suo odore. Il sonatore, tetro, impassibile, con le labbra violette e la guancia livorosa, sembrava che neppure ascoltasse. Degli altri, chi alzava a metà la testa addormentata, chi mutava posizione fermando uno sbadiglio, in piedi Antonio aspettava, con le orme in viso di una lunga pazienza. Ma ad Artemisia, di là dal muro, quel po' di suono bastò per ricordare che c'erano altre cose, altri paesi da appetire, che suo padre era lontano, quasi perduto, che lei doveva guadagnarsi il nome, questo nome stravagante che le avevano messo e che portentoso doveva diventare. La curiosità, quel tanto di brio malizioso che l'aveva tenuta sveglia a spiare, l'abbandonarono. Si diresse a letto trascinandosi dietro il mantello come una veste di corte. Non aveva più bisogno di nessuno, solo di se stessa. Lentamente, quasi solennemente, si sdraiava, secondando coi moti bassi e ronzanti che ancora le giungevano attutiti. Domani dirò a Francesco, vedranno chi è Artemisia. E così si addormentava. Ma più tardi, nella trasparenza del primo sonno, sentì Antonio socchiuder l'uscio, richiuderlo, accostarsi, accendere un suo lumicino. Senza lume non poteva dormire. Si spogliava cauto con qualche sospiro. Respirava fitto quando abbassava il capo per slacciarsi le scarpe e nel sonno appena diradato, Artemisia fu di nuovo vinta dalla dolcezza di quella compagnia discreta, umile, fedele. Di nuovo era moglie. E quando a occhi chiusi si accorse che lui, prima di sollevar le coltri, si fermava un momento a guardarla, avvertì un brivido, quasi una paura dolce. A notte fonda, almeno una volta si svegliava del tutto e al lumicino guizzante doveva certe felicità istantanee e intere, calde come il sangue. Cheta e immobile contemplava quel dono, quella sorpresa. La creatura che le dormiva al fianco, abbandonata. Il suo respiro era tenue, infantile, l'ombrosità, la timidezza della veglia si risolvevano in fiducia. Antonio dormiva da innocente e un uomo innocente è una gran cosa. La donna scrutava, commossa, tutto quel che lo faceva umano, simile a lei, suo coetaneo e pari. La pelle ancora liscia, i capelli arruffati, il setto del naso trasparente, gli incisivi umidi, la mano finalmente in riposo. A momenti, questo constatare essenziale e minuto le dava un tripudio di allegrezza da svegliarlo e raccontargli e farsi raccontare una cosa qualunque, a voce bassa e ridente, come uno soffia col fiato un fuocherello che ha preso e non si credeva. Allora alzava il braccio e gli ricomponeva le coperte intorno al collo. Non pensava a decidere se fosse bello o brutto, e neppure se le piacesse. Esose pedanterie le sembravano i ricordi dell'infanzia o di quel giorno di nozze sbiadito che lui le camminava avanti con le sue gambe troppo lunghe. Di quel giorno, una cosa sola era vera: la pagina nel libro della parrocchia dove lei si chiamò Artemisia Stiattesi, un foglio da riscattare tutti quelli degli esami di Corte Savella. Che bella cosa! Si estasiava in memore, scivolando nel nuovo sonno. Che bella cosa appartenere a qualcuno, spogliarsi di sé, essere diversa, irriconoscibile. Che bella cosa! L'esclamazione diventava interrogativa ed era come l'ombra di un sogno che cominciasse d'una melanconia incantata che alla giovane faceva inarcare la fronte nello sforzo di penetrarla, afferrarla intera. Al risveglio, neppure come un sogno la rammentava. Questo riflettere e sognare, qui stava il pericolo. Non ne aveva avuto tempo. Nella sua solitudine operosa, ai giorni della vergogna, segregazione, i pensieri erano tutti di un rigore conforme. Ma adesso, pagato quel debito che era durato così a lungo, riscattata certa sua debolezza di adolescente, per cui a ogni escursione del pensiero si affiancava all'impronta di peccatrice, era facile trascorrere a moti liberi fuori di ogni pregiudizio. E che cos'è l'amore? Le venne pensato una mattina che era contenta per aver composto il tema di una Cleopatra aspirante che avrebbe preso a dipingere nello studio di Francesco il giorno stesso. Sapeva ormai che i suoi doveri di sposa, dinanzi a cui era fuggita e aveva poi affrontato orgogliosamente, erano facili e dolci quando erano subiti con tenera carità, da debole a debole. Le era naturale scansare l'aspra segretezza della sensazione egoista, quella che la gettava un tempo come ci si butta a fiume al collo di Agostino già impaziente e distolto. Né viso né braccia ha più Agostino. Ma in lui s'annidava la leggenda della passione, leggenda attormentata a cui si affidavano i suoi motivi di ragazza tradita. Vale ancora questa leggenda, quella perpetua interiore violenza, quella sopraffazione dei propri mezzi, limiti e giusti? O non è l'amore questo incanto impreveduto, questa soccorrevolezza istintiva che la lega ad Antonio? Sospetti di errore. Sospetti di viltà, ma ormai gli occhi di Artemisia rimangono chiari a questi cimenti, perché Artemisia è una donna forte. Tanto è vero che non si sgomenta a certe limpide verità inventate da lei, come dire che è il tempo a far l'amore e il disamore, il tempo che ci fa e ci disfa, che noi facciamo e disfacciamo. E fu atterrita, pensando a quanto era giovane ancora, a quante cose potevano accaderle, sembrarle vere e poi false, prima di morire. Guardava il letto, quelle bizzarre masserizie, il suo bagaglio accatastato, tutte cose di cui non solo si contentava, ma che un'amorosa superstizione la persuadeva a non toccare, legate come erano al tacito patto che aveva reso possibile l'unione di cui viveva. Un marito merciaio che batte gli occhi, ha il collo abbronzato, il petto bianco, si scarica della cassetta con un gesto di manovale affaticato, sulla spalla la cinghia ha approfondito un solco che non si cancella. Ma un marito che la prende per la mano e si ferma a lungo a guardargliela, a voltarla di sopra e di sotto, come ne studiasse amorosamente la pelle, le pieghe, le vene, con un sorriso estasiato e malinconico all'angolo della bocca. Segreti, impalpabili misteri che un colpo di luce troppo forte può disperdere, e Artemisia non saprebbe tollerarlo. Forse anche cambiare d'abito, mutare acconciatura può alterarli e fugarli. Artemisia non cambia d'abito, non apre lo scrignetto dei gingilli. Pure non si impegna oggi a ricusare le proposte del fratello circa un bel quarto a ripetta, anticamera e sala di conversazione che un certo francese cederebbe per 10 quadri di imperatore all'anno. Non più di 6, ribatterà sbozzando il panneggio della Cleopatra con quella sicurezza un po' sprezzante che tutti, fuorché Antonio, sembrano attendersi da lei. E adesso Le pare una fanciullaggine questo gusto di una stamberga fra una stalla e una cucina. L'inverno portò incomodi e strapazzi, ed era strano come al momento di dichiararli barbari e insopportabili, una bizzarria di Antonio, una sua trovata, li convertisse in favola e in magica splendidezza. Un'ingegnosa bocca di calore scongiurò il freddo, soffiando nella stanza un alito fervoroso in cui volitavano, come pepite d'oro, le pagliucole del vecchio grano non bene spazzato. I mattoni umidi disparvero una sera sotto un ricco tappeto dai colori fastosi. Una coperta di vaio fu stesa sul letto, che divenne il più caldo e sontuoso su cui Artemisia avesse mai dormito. Intanto, le proposte di Francesco diventavano urgenti e lasciavano poco tempo a riflettere, 15 giorni, una settimana. E fu allora che nello stanzone di Ripa Grande si moltiplicarono le sorprese: drappi, ventagli, fiale di profumi, caraffe di cristallo, guantiere d'argento, chicchi d'ambra. Arrivò persino una seggiola a braccioli di cuoio dorato e una lucerna da scrittoio snella snella. Pochissimo Antonio si lasciava vedere, ma sembrava che con lo scorrere e stringere dei giorni un'affannosa gara si concretasse fra quel che il fratello prometteva e ciò che offriva il marito. Diceva Francesco: una casa fornita di tutto, la mobilia è nei patti con le portiere di raso e ogni cosa. C'è una combinazione di carrozza da costarti poco e lo staffiere lo spesa il francese. Tratterai dame, farai ritratto ai primi soggetti di qua. Non passa un anno che servi il cardinal padrone. E, steso sul letto, Antonio le fece trovare per Natale un vestito di broccato d'argento sulle sue misure. Fu il suo ultimo dono. Per Santo Stefano, infatti, Artemisia si recò a visitare la casa nuova. Nel lieto tumulto di equipaggi e pedoni, signori sgargianti e servi indaffarati, per tutto trofei di vettovaglie e donativi, capitoni, anguille, camangiari, capponi, pomi, uva fresca. E gli zampognari a stridere, i banchi dei presepi in mezzo di strada, grida, risa, nasi vermigli. Nel cielo invernale, chiaro chiaro, le stelle già pungevano e lo staffiere del francese, scortando con la torcia i gentileschi fino alla carrozza, chiamò Artemisia eccellentissima signora. Per la prima volta da che la sorella era a Roma, Francesco l'accompagnò sino a Ripa Grande. Discese con lei, entrò dagli stiattesi stupiti e selvatici che giusto stavano litigando e Mariuccia s'era levato una pianella per tirarla a protasio. «E addio, Battista!» dice Francesco a muso duro, che ha avuto sempre a noia quel mezzo parente da poco, gli par giunta l'ora di farglielo capire. Per accompagnare Artemisia si è vestito bene, con la spada al fianco e ai moti dell'uomo che non vuol sporcare i panni buoni. Non si siede, non saluta gli altri. Sì, la sorella, con una specie di baciamano grazioso alla spagnola, imparato chissà dove. Manco poco che la pianella di Mariuccia non mutasse direzione. Ti ho fatto una sorpresa, pensava Artemisia di esordire con Antonio per informarlo che si cambiava casa, che anche lui avrebbe goduto mobili ricchi, tavola civile, un servo. Sentiva bene di proporre un'enormità e per darsi coraggio cercava di irritarsi. Vorrei vedere che non fosse contento, uno che casa non sa cosa sia e solo per me starà all'onor del mondo, servito e rispettato. Ma come lo vide entrare, con un viso inquieto e presago, nuovamente sparuto in poche ore? Fu un perdono che gli domandò. E fu peggio che mai, giacché nessuno aveva mai chiesto perdono ad Antonio, e questo umiliarsi della moglie lo metteva dalla parte di una ragione che non aveva mai preteso di sostenere, talché le piccole manie di cui si componeva la sua presenza ne restavano sgominate, e il suo consueto silenzio, da dolce che era, si faceva brusco e convulso. Il peso delle parole ricadde su Artemisia, che tutta la notte parlò e pianse e s'adirò, anche mandando in pezzi la caraffa di cristallo che Antonio raccolse pezzo per pezzo. Ancora parlava all'alba, mentre suonavano le campane e Antonio dormiva affranto, pallidissimo. Non uscì di casa quella mattina. Allora prese ad Artemisia la smania di rimuovere in quella stanza rozza e polverosa ogni oggetto, ogni panno, quasi a dimostrare quanto fosse infondato e sciocco quel suo intimo ritegno a cambiare l'aspetto di un luogo dove le cose vecchie e le nuove, le rustiche e le nobili si accumulavano come si addensano le tele di ragno e la cenere. Per prima cosa fu tirato nel mezzo il bagaglio recato da Firenze. Furono estratti gli abiti alla fiorentina, i regali della granduchessa giovane, delle dame amiche, rimestati e smistati gli attrezzi del mestiere, fra cui pezzi di un gran cavalletto smontabile che parvero zampe di un insetto storpio. Le corde con su la mercanzia di Antonio tremavano al passaggio di Artemisia affaccendata, rossi gli zigomi, le labbra secche e il broncio testardo della sua infanzia, gonfio tra la bocca e il mento. Ricordate le casse, rimase sul piancito, accanto al tappeto, al letto disfatto, alla poltrona rincantucciata, un ammasso di cartacce e di paglia, quasi l'orma di un bivacco di un giorno. Verrai adesso? Disse Artemisia scoppiando con la voce e con l'attitudine, la testa aggressiva, e se Antonio l'avesse guardata avrebbe forse riconosciuto la bambina cattiva e generosa che qualche volta pretendeva strapparlo alla sua quiete di piccolo trafficante. Ma Antonio non la guardava e le volgeva le spalle, stando in piedi presso il finestrone, la fronte appoggiata al ferro che Artemisia non avrebbe raggiunto se non a mano alzata, tanto era alto. Dal cortile arrivò un grido, le mule per la lettiga, e seguì un tramestio di zoccoli. Ci sono i facchini, illustrissima, schernì la voce di Mariuccia che oggi osava affacciarsi e rimaneva sulla soglia curiosa e ostile. In quel momento parve ad Artemisia di subire un'enorme ingiustizia che qualcuno avesse sconvolto l'aspetto della sua stanza, la sua cara stanza coniugale. Non ne avrebbe avuta un'altra, ne fu sicura. Né di alcun lusso o dono avrebbe goduto come di quelli che le erano stati offerti qui dentro. Ma non era più tempo di muoversi, di protestare, di ravvedersi. Non era più tempo di toccare la lucerna d'argento appoggiata a terra, il mantello da pellegrino di cui si era servita una sera e aveva ora delle pieghe lugubri da morto risuscitato che le indicasse la porta. Mariuccia guardava. Antonio non guardava. Portate via questo e questo e quest'altro, cominciò a comandare Artemisia con un orribile sforzo, vincendosi per non balbettare. Pensava da quanto tempo Antonio non l'avesse abbracciata, da 12 ore, da 20. Avrebbe voluto allacciarlo alle spalle, appoggiargli la gota alla schiena, stringerlo con le mani sul petto. Questo forse ci voleva per dissipare quella lunga pena, ma era come sentire una musica struggente e non poterla seguire. E fu un povero riscatto passare davanti a Mariuccia a testa alta senza batter ciglio. Il peggio doveva venire. Quando, accomodata nella casa nuova, Antonio parve persuaso di seguirla, di stabilirsi con lei, di obbedirle, insomma, ma non era più il suo marito, il suo caro marito bizzarro e misterioso, l'uomo lunatico e gentile, padrone, accanto a lei, di arbitri e iniziative quasi impercettibili, ma così singolari quanto rispettosi, cavallereschi. Certi modi delicati e ariosi che le sue membra disequilibrate esprimevano sempre più apertamente, composti di genialità ombrosa, in gioco che continuamente bisognava scoprire, erano scomparsi come in un ricordo di sogno. In sogno poteva credere Artemisia di aver penetrato il carattere dell'uomo con cui le piaceva vivere, dinanzi a quest'uomo di oggi, fraottuso e inquieto, evasivo e pedante, che tornava a casa troppo presto o troppo tardi. E una volta di notte fonda, ciondolante e malconcio, parve alla moglie che avesse bevuto. Ma nella casa nuova c'era tanto da fare, troppo da parlare e gestire per mettere in piedi una norma di vita libera e rispettabile, un sistema di uscire, di entrare, di lavorare, di riposarsi, un costume naturale e agiato, l'eredità di chi ha sempre goduta una casa comoda e gli è parso giusto possederla. Le ore volavano e con esse i nuovi oggetti, talché Artemisia vedeva seggiole, tavole, stoviglie, fornite e credenze come fossero chimere o scintille effimere di un gran fuoco che bruciava lontano. E si apparivano e precipitavano per riapparire e precipitare fra mezz'ora, fra un'ora. Usarli era conquista, non godimento. Sicché, sui piani lucidi del legno, veniva voglia di incidere un intacco, un segno che li rendesse meno indipendenti e provvisori. Il servo alzava le famose portiere di raso giallo e diceva: «Stanno salendo due cavalieri». Oppure: «È di là Teta Lavandara», che Artemisia già incominciava a ricevere, mostrando i frutti dell'esercizio suo, tele portate da Firenze, verniciate, inquadrate, ma anche principiavano a riconoscerla e a venirla a trovare certe comari impronte che ancora stavano alla Croce o a Via Paolina e si presentavano fra timide e spavalde a inquisire le fortune e condizioni della piccola Gentileschi. Era raro che i cavalieri guardassero più le tele che non la pittrice, e quanto alle comari, esse ritornarono a casa dicendo che, altro che pittura, Artemisia ha trovato il mestiere che fa per lei. E Artemisia, ridottasi in quella che è dunque la sua stanza, salutato il premuroso Francesco di cui sta spendendo i risparmi, sente che un amaro disagio la guadagna e sale i gradini del suo letto parato, come se scendesse in un pozzo. Quel letto Antonio non lo divide con lei. Egli ha scelto senza spiegazione un camerotto buio, una branda, e la mattina, quando se n'è andato, non lascia di sé per il valore di uno spillo. «Sornione, sospettoso, meschino!» dice a voce alta Artemisia, seduta sola su quel gran letto. Ma sono ingiurie che non la sfogano, né la consolano, e il freddo che la penetra accaglia come latte le sue lacrime difficili. Le pare di essere sulla strada, cacciata da un riparo caldo dove i doni di Antonio, le uniche ricchezze che abbia mai posseduto, siano rimasti toltile per inganno. Piangere in silenzio e disprezzata era buono a 15 anni, quando non ci si conosce neppure di viso. Oggi il soffrire di Artemisia non si disgiunge da un'immagine di sé presente in uno specchio che non perde mai lume, anche se la bella donna che ci trova, così bionda, così bianca, di così bel riso, le è motivo di sospetto e di interna oscurità. E troppo spesso le lacrime sono liquido fuoco che accende l'ira, perché non è tempo di soffrire questo, ma di vivere. Si spieghi, Antonio, rimproveri se gli dà l'animo, ascolti le ragioni, si convinca. E già le membra inquiete prendono lo slancio per scendere dal letto, uscir di camera, se non che l'ombra della notte in quella casa prestata, quasi usurpata, quella fila di stanze inutili da attraversare col lume in mano e che non la riconoscono, e poi il volto stesso di Antonio di là nel suo stanzino, chissà come atteggiato, chissà con che occhi fermi e impenetrabili che subito sparirebbero sotto le palpebre. Le tagliano l'impeto e i propositi, da non poter credere che un mese fa li dominava quegli occhi e se ne faceva implorare. Si stende Antonio o ancora siede al freddo meditando, senza tradirsi, le lunghe gambe raggomitolate sotto la coltre, sempre troppo corta per lui? Nella nuova strada, che è chiassosa anche di notte, scorrono le carrozze fino a tardi e i cocchieri di gran casa urlano, facinorosi, pretendendo il passo, risa, canti sgangherati che si allontanano, o nel silenzio che batte sulla tempia la sua zampa di velluto, un lugubre lagno, da un vicolo, da una casa, da un convento. Son tante le chiese intorno, son tanti i morti sotto e dietro i marmi. Artemisia si tira il lenzuolo sulla testa, il cuore le batte in gola, si ritrova infelice e colpevole. Non le preme quel che dirà domani al Cavalier dal Pozzo, nobile protettore che occorre cattivarsi, e al Marchese Giustiniani, mecenate che non vuol storie. Non desidera più che vengano come hanno promesso. E se riesce a placarsi, a prender sonno e pensando che alla fine Antonio è in casa, a pochi passi da lei, che è suo marito, e un broncio fra sposi non conta, capirà. Torneremo insieme, mi amerà di più.